come cazzo prenderla. Però potrei fare quel tentativo, mettere i radiali corti. Comunque è iniziata a piovere anche qua e sta piovendo abbastanza forte. L'acqua è già arrivata anche qua, capito? O qua è possibile che, perché io mi ricordo la stella, come ho detto poc'anzi, aveva 16 di radiali, erano leggermente più sottili e allo stesso tempo non fischiavano e andava bene l'antenna, altro che. Vai Gianni, e aspetta che vado a vedere se le file ci sono tutte chiuse prima che mi viene la ghiera a casa. E controlla già, perché sta piovendo bene. Ha fatto una passata qua, due minuti, ma grossa però. Sì, no, non interna, no Giulio, inguainarlo esternamente, con della guaina nera, no? Ci sono quelle guaine vuote, nere, no? Che incappucciano i cavi, eccetera. Inguainarla, e poi cappuccetta. Dice che secondo lui non fischiava e riservava anche dalla salsedine l'alluminio. Il tubo, vabbè, proverò, invece poi non ho più provato. L'avevo tolta perché l'ultimo lavoro che ho fatto era una cosa bellissima, tutta bella, pulita, ordinata, messi tutti i radiali nuovi, c'ero tutta la mattina, mi avevo messo tutte le viti in acciaio ossidabile e tutto. Alla buio di un mese, ha già stato lo gabbo, poi non ce ne mancavano tre radiali, spezzati proprio dalle cornacchie. Capito? Aiuto, adesso mi sono stufato, avanti la buco, allora era il periodo che ancora prendevano la Mantova, l'avevo chiesto a Mario, Babbo Natale che era sul continente, ho detto a Mario sì, e nella zona di Appennello si passa a Mantova e comprami una Mantova 1, e me l'aveva portata lui, e abitava a Latte Dolce allora. Capito? E me l'aveva portata lui, l'aveva presa proprio lì in fabbrica, l'aveva pagata 80 euro, 80 euro presa lì in fabbrica al volo, capito? Ed è eccezionale. Però io ti ripeto, la Mantova tubo l'ho provata e mi ha dato grandi soddisfazioni. È una bellissima antenna, buonissima. Ha avuto problema dei radiali. Secondo me tu risolvi, accorciandoli, secondo me risolvi Giulio. Non ha anche problema elettrico, quello della massa. Cosa? Ho detto, la Mantova 5 a qualcuno ha fatto il problema che si staccava il filo della bobina. E già uno su mille, Roberto ad esempio l'aveva comprata nuova e l'ha montata e non esce l'antenna. Cosa c'entra? Un difetto lo può avere. Io ti ripeto, di Mantova ne ho avuto tre, ho avuto 2,5 e una 1 e una turbo. Mai nessun problema, mai nessun. Vedi, quel piantone lo stesso che mi aveva dato coso, aveva lo stesso problema. L'ho messo ancora da parte, devo capire cosa è successo lì, però visto che il tuo piantone era già pronto, è stato più facile boccolare, mettere i radiali nuovi e piazzare quella, mentre quella lì c'è nuovamente ad aprirla, a vedere, eccetera, però può capitare uno su mille già, non è un problema, a me non mi è mai successo, vai giù. Ok, sì, si potrebbe provare così a rivestire il radiale, in modo per evitare il suono, con quella guaina autorestringente, che va bene lo stesso, quella che si usa per isolare i fili elettrici, probabilmente basterebbe quella, e chi lo sa, comunque, saremo a vedere cosa farne. Nel momento è qua, poi, tanto non è che mi cambia niente a me, averla questa e non averla è uguale, però se non ce l'ho, devo essere sincero, mi dispiacerebbe darla via. Ma vedete mi fai? Niente, ecco, lo vedo di vostro, proprio niente di niente. Se questo non è sbagliato, ha dato 45 euro, boh, basta, ho detto tutto. E i soldi non è che si buttano così, no? Vai Gianni. In effetti ce la vedi, non ti posso andare più di tanto, è a seconda mano, quindi non te la pagano come dovrebbero. Per avere un pugno di mosche è meglio averlo in casa e tenertela come, diciamo, riserva. Ah, non ci sono dubbi. No, se dovessi decidere un domani di venderla, se voglio 100 euro, se no non te la va, ma nemmeno un centesimo in meno, tu mi dirai, ma no, non c'è bisogno di vederla. Siccome l'antenna è buona, in ottimissime condizioni, vale, 100 euro vale. E se ti vuoi togliere una curiosità, già mi, tu scrivi Mantova Turbo, sigma Mantova Turbo nel computer e ti appare uno che la sta vendendo 329 euro, la sta vendendo, e un altro la sta vendendo 450 euro. forse perché non si trova più, e io magari ho un macchio, uno con macchio dell'altro, perché voglio vedere chi è che ha il coraggio di comprare una manta a macchio e fritti, è pazzesco, va. Però tanto, intanto ci sono queste persone che era voi, mi dai questi soldi, se no niente da qua, avanti qua. Specula. Vabbè, ognuno può vendere quello che le piace, se poi a bocca al pollo e la vendi. Ma la tua guarda che è 100 euro, un ottimo prezzo. È un ottimo prezzo, anche se l'hai montata per un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, è un ottimo prezzo, perché è nuova, lo so che è nuova, poi conoscendo a te, è nuova, nuova, perciò io non ho nessuna intenzione, nel caso dovessi avere intenzione che ce l'hai ancora, se la stai dando a quel prezzo me la prendo tranquillamente, capito? Perché è un ottimo prezzo, è un'antenna che fate alcune così, quella guaina lì mi ha detto, quella guaina, termorestringente, certo, quella lì, la metti dentro, una scaldata leggera e da zindira, e il radiale diventa bello compatto, cappuccetto, capito? Le lasci lo spazio per il cappuccetto in modo che arrivi poi a toccare la guaina, esce una cannonata, secondo me non fischia, altrimenti accorci leggermente il radiale, intanto non le fa assolutamente niente, perché mi sembra che io anziché da 1,60 li avevo messi da un metro, li avevo messi tutti da un metro, l'antenna funzionava perfettamente, non aveva più cicciola quello che sta facendo, credo. Non aveva più quel problema, ok? Gianni, riprendi tu, io mi allontano, poi magari rientro con un break, perché voglio controllare se è tutto a posto, le finestre e tutto, e sta piovendo veramente tantissimo qua. Qua ancora è un mobiletti, non sta piovendo tantissimo, goccioline e basta. Probabilmente ancora non è arrivata, qua sarà appena arrivata. Vabbè, qua, siamo qua. Avanti, Giulio. Sì, qua adesso un po' ha calmato l'acqua, però ne ha fatto una bella passata, proprio forte che subito si allaga la strada, ma meno male già defluisce in fretta, perché è in discesa, per cui non c'è problema. Sì, è così già, ripeto, è quello stupido, ma ognuno la cosa sua la vende al prezzo che crede, però è pazzesco, quando mai uno può chiedere 329 euro gratis per un'antenna a manto batturbo, oppure 450 euro con un altro ancora più pazzo. Oh, bisogna essere pazzi anche a comprarla a quei prezzi. Incredibile, io non ci avrei mai, se me l'avessero detto, raccontato, non ci avrei creduto. Lo so perché l'ho letto, cioè il giorno che mi è venuto in mente, voglio vedere cosa può costare un avanto, un batturbo di seconda mano. E una volta aperto il computer, capito, apro il computer, anche il telefonino, ma siccome il telefonino è il computer, perché io ho internet anche sul telefonino, e mi appare proprio in primissima fila manto batturbo 329 euro. Ma quant'è questa cosa? Allora pensate, ma allora io ho battuto euro la gioco alle carente, ma potete vedere chi è il pazzo o chi ha il coraggio di comprare un'antenna che costa 145 nuova a pagarla 329 euro, è pazzesco, già, tu l'avresti comprata. Non l'avrei comprata, no. Io ho visto anche il Galaxy 450 euro, se per questo, ma sono gente che passa. Quello già è vero, quello già è vero. Lo so già. Lo so, io ad esempio ho il Constat 25B, mi sembra che l'ha fatto quello Lafayette, se ricordo bene. L'ho visto al computer 250 euro. Lo stanno vendendo completo con un microfono MBT4 250 euro. Se mi date 250 euro per il mio, ne vedo due nel logo di te baracchini, no uno, due nel logo. C'è gente che specula molto su certe cose, dai, già esagerato. Io guarda, l'ho trovato una matta, ma 78 euro. Visto, questo è un prezzo buonissimo lo stesso, ma sono prezzi abbordabili, va bene, e ripeto, io non andrei a prendere le 100 lire, assolutamente no, prendo per niente, no, perché non volevo, ma poi uno non è obbligato a comprarla, chiaramente, io farei il mio prezzo è quello, se la vuoi così, se no lascia stare, tanto a me non mi servono le 100 euro. E rispetto, magari se la do anche, se la vendo, poi me ne pento anche, che non ce l'ho più, tu mi dai, ma intanto non la durata, infatti non la uso, anzi mi dà anche fastidio tante volte che sto sempre spostando da un posto all'altro. Purtroppo è così, il mio carattere è quello già. Usata e revisionata, c'è scritto, usata e revisionata, 78 euro, perfettamente funzionante. Quello è un prezzo abbordabile, dai, se è buona l'antenna. Beh certo, se è buona l'antenna è abbordabile, sì. E qual è che ti fai? La turbo? Sì, manco fa turbo, sì. Poi ne ho visto 300 e passa, come mi hai detto tu, cazzo, ma stiamo scattando. E te l'ho detto, lo stai raccontando bugie, non è che molti vuole te raccontare bugie, te l'ho detto 329 se ricordo bene, ma c'è ancora un altro, 450, una cosa del genere già, pazzesco, cazzo, con 450 c'è un più, voi due c'è, le antenne, eh. Vabbè che io sono fatto così, se a me una cosa mi piace, pur di averla la pago come... diciamo non prezzi così esorbitanti, però se per dire apparecchi che valgono 120 li ho pagati 150, però siccome mi piaceva me lo sono preso. Questa è tutta un'altra storia, oggi. E poi finché si tratta di 20-30 euro uno può anche accettare il prezzo, anche se può sembrare un pochino alto, però capita che tu la vuoi più del doppio di quando era nuova e aiutai, quella addirittura tre volte tanto, quella da 450 è pazzesco, è proprio pazzesco, certi prezzi sono assurdi, guarda, io non la comprerei mai, nemmeno per sogno, neanche se dovesse servirmi come il pane, non la comprerei mai a 450 euro la manto batturbo, ma pure in disegno. Chi è che sta cagando? Avanti! Allora, fine che balacchini! E adesso mi tiriamo dentro e spegniamo il balacchini. Va bene, contento sì. Dai, giù, che ci sono i fulmini, lo sai che bisogna staccare le antenne e parlare con Mulo. Oh, me lo fate per un ferro, Mulo, primo. Lo fate per un ferro. Ciao Lu, sto facendo un ferro e va benissimo, guarda, tu che funzionano in tutte le maniere i baracchini. Riprendi. Allora, non c'è nessuno? Sì, Gianni c'è, e Claudio si è sentato un attimo, ritorna subito. Perché ho appena acceso io. Buonasera. E allora, come sto uscendo che ho cambiato apparato? Solito. KK. Sì, adesso. Ma adesso c'è un altro apparecchio, dai. Sto uscendo con l'Intec, stazione base. Ecco, anche l'hai venduto oggi, chi sarà? No, venduta, no. Anzi, gli ho messo anche le luci blu in tutti gli strumenti, è così carina adesso, guarda. È una bella radio, è anche introvabile comunque. Cosa, Luca? Che è una bella radio, è anche introvabile. Sì, no, io già sono contento. Gli ho messo, Gingo aveva ordinato le luci blu, l'aveva prese da internet. E dopo ha venduto l'apparecchio, ma mi ha detto che già venivo vuote, non è che li vuino. E le ho vendute, me le ha vendute e le ho piazzate qua, capito? Ah, è molto bello con le luci blu, eh. Avanti Giulietto. Sì, stavo guardando i risultati delle partite che hanno già giocato. E vabbè, è così, eh. Ah, Olu, stavo dicendo, un guaccio di gambo, la mandava turbo 329 euro, lo volevo pareggi, e un altro ancora più guaccio 450 euro, non gliela compri. Ma per carità, va bene che non si trova così, però insomma, forse prendeva 32 euro. Forse è sbagliato, mi ha messo qualche euro in più, sarà così. Non è possibile, ragazzi. Perché ci vuole coraggio per fare certi prezzi? Forse ha pensato, vedrai che prima o poi qualcuno a bocca sta pegando, ma ha fatto il resto, sta pegando. Vai già. Ma poi sarà anche a seconda mano, così è giù. Era in seconda mano, perlomeno io avevo ho scritto usato, quanto baturbo usate. E ha passato proprio quello. Ma anche se fosse nuova, l'uova del Zecca, ma ti sembra che puoi tu vendere una cosa a quel prezzo, così, un'antenna a quel prezzo quando costava 145 euro da nuova? Dai, aiuto, dai, sei un criminale quando fai così, tu non la vuoi vendere, e se la vendi, se riesci a vendere, sei un ladro. Io la penso in questo modo già. Avanti Luca. Casino, un attimo, chi c'è poi giù? Cosa hai detto Luca? Non ho capito. Ho detto chi c'è in frequenza. Io, tu e Gianni, e c'è Claudio che si è assentato un attimo, rientra subito. Poi su 10 ci dovrebbe essere Gianfranco e anche Marco ci dovrebbe essere su 10. E ma sono in FM adesso. Si vede che stanno facendo delle prove, stanno facendo. Lasciamoli fare. Andate. Via. Don Luca, toglimi una curiosità, tu dove ricompri le canne da pesca per le antenne che fai? Su internet io le prendo giù, perché mi sa che qua Decathlon non ne ha più. No, ma quale è Decathlon? Solo già lo sappiamo, come so io ne ho una, ancora da 7 metri però, non è da 8, perché io l'avevo sempre presa così, da 7 metri, e sia la prima che avevo fatto e quest'altra, un'altra sempre l'avevo discosta, un'altra canna da pesca. E poi l'avevo allungata con un pezzo di tubo da scarico di lavandino, quello grigio da 40 mm di diametro, l'avevo allungata, cioè praticamente la parte superiore dell'antenna, siccome è troppo sottile il filo non passa, e l'avevo allungata e recuperato il pezzo della punta, l'avevo recuperata alla base, perché poi dentro quel grigio ci avevo infilato un tubo da 32 mm, quelli da impianti elettrici, da elettricista, insomma, no? Quelli rigidi, e poi la canna a pesca in fila giusta nel tubo da 32, sicché aveva anche un rinforzo abbastanza consistente, e devo dire che mi è durato 2 anni e mezzo, ma poi prima o poi arriva un vento forte, te la fa in 4 pezzi o in 5. Può succedere, no? Vai Lu. Aspetta un attimo giù che abbasso qua. Sì. No, io le prendo su un negozio su internet. E sono buone, sono anche di marca, linea F, capito? Così che poi vabbè, c'è da fare tutto il lavoro, non è che solo la canna da pesca rimane forte al vento, eccetera, eccetera. Beh, certamente poi va completata, questo sì, non ci sono dubbi, ma per dire no. Poi io l'avevo riportata in quella maniera, sempre con tubi da elettricista, lì un'altra volta hanno fatto me, il telefonino mi sta avvisando che hanno fatto un'altra volta, e dunque ha retto, fin quando ce l'avevo io era sempre bella intera, e poi l'ho data mio nipote a Carbugna di Sant'Enna, e lui mi ha dato questa originale Game Master, che poi a sua volta gliel'avevo data io stesso, però lui non ce l'aveva mai piazzata, l'ha voluta e poi non se l'ha mai piazzata, ma io nel frattempo avevo la tubo piazzata, avevo, e gli ho lavorato così, mi ha preso alla sprovvista, mi ha preso e pigliadina, gli ho detto va, se l'ha presa, e poi invece non l'ho mai piazzata, e poi me la sono fatta resettire e me l'ha resettito volentieri, non c'è problema. Vai Gianni. Comunque ce ne sono che costano anche 38 euro, se guardi, se giri, non so come siano, sono già usate, sono usate, però la cifra, se l'antenna va bene, è decisamente migliore come cifra. Luca, dimmi che microfono stai usando. E non si sente, cioè. Lo sento strano, lo sento con molti acuti e pochi bassi. Cosa è? Una statica? No, è 60. È 60. Forse vuole regolato. Cavolo, Giulio, tu come lo senti? Io lo sento con molti acuti. Sì, acuti che era abbastanza bassi, bassi non è. Però è abbastanza chiaro, problemi non ce ne sono. A proposito, l'alternata che ci sentiva poc'anzi, adesso passata è o Gianni. Sì. E avevo qui il telefonino sotto carica, avevo, che poi è ancora da caricare al massimo perché è arrivata solo al 50%, però dopo continuo a caricarlo. Ecco. Adesso l'ho tolto proprio per non disturbare perché mi creava quella specie di rumore. Va bene, avanti, Luca, io l'ho comprata da Decathlon, l'avevo pagato 15,90 e per esattezza, 7 metri lunga, era una di quelle canne da fiume. Maggio, 7 metri non va bene, perché che ne toglierci mio, e lo tagli eccetera eccetera, non va bene 7 metri, guarda, meglio è da 9, se uno trova da 9 è meglio. Lo so, appunto te lo sto dicendo, ne ho tolto la punta, l'ho tolta, quello il pezzo finale l'ho eliminato, però poi ho recuperato alla base con un pezzo di almeno un metro buoni di quel tubo da lavandino, no? Da scarico di lavandino che è rigidissimo, addirittura lo puoi utilizzare anche per attaccare direttamente al palo, e dentro di quello ci ho messo un pezzo di tubo da elettricista da 32 mm, allo stesso tempo quel tubo da 32 mm spuntava fuori dal tubo grigio e ci ho infilato sopra la canna da pesca che entra perfetta, senza gioco e niente, perfetta, capito? Per cui non tutta quanta bene l'attuata eccetera eccetera, 2 anni e mezzo me l'avevi attaccata, è sempre intera, era, e l'ho smontata poi tranquillamente, l'ho data al ragazzo, per cui se l'ha portata a Carbonia. Ok, vai, riprendi. Sì, vabbè, giù, però la struttura, se la metti sul tetto a 5 metri d'altezza, capito, così come l'hai fatta tu, la metti con un po' a 5 metri, dura quello che è poco, capito? Sì, è probabile, però devo dire anche una cosa, che qua, anche se era bassa, però tutto attorno non c'è niente, perché ripeto, quella testa già si vede il mare. Io praticamente da sopra il tetto vedo il mare, vedo, perciò non ci sono ostacoli. Quando arrivo al maestrale arriva senza nessun impedimento, arriva tutto forte, a tutte, tu la vedi che si sposta, si spostava da una parte all'altra, sembrava un flustino di che usano i cosi, quelli per i cavalli. Eppure non si è mai rotta, vabbè, comunque andiamo bene, però ripeto, l'ho rinforzata dove ci sono tutti i collegamenti degli elementi, l'ho rinforzata sempre con questo tubo da elettricisti, se fosse quello, il vantaggio è stato quello, che non si è mai rotta per quel motivo lì, non lo so, sono sottili gli elementi, sono di carta velina, ma io l'ho rinforzata in quel modo. Va bene, avanti Gianni. Tu tra un elemento e l'altro cosa metti? Solo vulcanizzante? Luca? Ho detto tu nell'antenna tua cosa hai messo? Solo vulcanizzante tra un elemento e l'altro? Tra un elemento e l'altro? No, nella mia c'è il nastro isolante per tutta l'antenna, non per solo nelle giunte, e il vulcanizzante per tutta l'antenna. Ah, lei tutta quanta nastrata? Per momento. Con le interferie, no, io l'ho messa come, ho messo solo vulcanizzante nelle aggiunture, basta. Già, fibra di vetro, capito, fibra di vetro, sicché sempre meglio, perlomeno io nelle mie faccio così e grazie a Dio dura e non si spezzano, capito? Vabbè, oltre a tutto l'altro lavoro che c'è, però è sempre, sempre nuova che rimane, capito? Beh sì, è protetta così. Ma io ho visto che la mia ha resistito bene anche al vento e tutto quanto, tranquilla. Ci piegava un po', ma no, non più di tanto. Perché il vento ha fatto già? Ecco, ma lui dai, se questo qua è il vento, già, perché tu non sei, io ci ammari come te me. Io, guarda, il vento qua ce n'era, ma il vento però, io non so se a ripunti da giù che c'era così, ma qua c'erano delle colate allucinanti. Io lo vedo proprio libero il mare, io vedo il mare proprio da casa. Sto a casa mia, ma è venuto, ci sei. Ma che scherza, io lo faccio la mattina, vedo il mare se è calmo, se è mosso. Ma stai scherzando, io ce l'ho davanti il mare rispetto a te. Boh, a me il vento può calma. Se tu mi dici che non c'è il vento, non è possibile, perché qua accanto c'era un vento allucinato. Oh, già, guarda, il giorno che c'è quel vento te lo dirò. Ti dirò già. Controllati l'antenna ogni tanto. Allora, quello è vento. No. Cioè, a me mi ha attaccato l'antenna solare, non ti dico altro, c'è l'antenna solare attaccata, me la sono dimenticata. A me è chiusa, praticamente ho sentito il cane abbaiare, cazzo, sento questo rumoraccio, ma cosa sta succedendo? Ed era l'antenna che stava sbattendo ai vetri della cosa, della veranda. Immaginati tu se non c'era di vento. Sì, ma non era un vento da temere le antenne, già, capito? No, vabbè, questo è un altro lavoro, questo non è appropriato. Ma questo non era... Ma così muovia la mia. Ma lui non ce l'ha sul tetto in alto come ce l'ho io, cazzo, io ce l'ho 5 piani alta l'antenna, già ci sei salito tu, già l'hai piazzata anche tu l'antenna nel mio tetto, avanti giù. Ok, tu sei a 5 piani, io sono a un piano praticamente. Sì, sì, no, immagino. Per cui, quello che volevo dire è... No, rispetto, dal tetto saranno adesso 2 metri, no, uno di più, esagerando 2,20, ma proprio... Se poi la porto su, può darsi anche che si rompe, perché probabilmente più in alto sale e più vento prende. Però, ripeto, come ho detto poc'anzi, qui il vento batte forte, perché non ci sono ostacoli. Quando soffia il vento, qui prende, da qualsiasi parte che arriva il vento è sempre fortissimo, perché le case che ci sono, sono né più né meno all'altezza della mia, per cui non c'è una casa più alta che possa ostacolare l'arrivo del vento, eccetera. Tant'è vero, da sopra il tetto io vedo il mare, nonostante che sono in una parte bassa nella zona delle punti, perché io sono 90 metri sotto Sassari, sotto il livello di Sassari, e cioè anziché a 220 metri sono a 135 metri da sotto casa, misurato con lo strumento professionale di mia figlia, che ti puoi immaginare, o sono anche penalizzato per quello, o forse sono coperto per quello, non lo so. So solo che l'antenna ha retto e abbastanza bene anche. Vai Luca. Sì, ma il vento ce n'era, non è come dice lui, il vento ce n'era un soffiava anche, sentivo che pressava contro la veranda, la muoveva i vetri addirittura. Ma tu non hai capito cosa intendeva lui, il vento nel senso che lui aveva rinforzato l'antenna, per cui non gli ha fatto niente all'antenna come l'ha rinforzata lui. Il vento c'era, certo, si è buttato giù degli alberi, ha buttato giù dei tetti, il vento c'era, altro che se c'era, ha buttato giù dei muri, per cui il vento c'era, ma lui intendeva con il vento, ma il vento c'era, nel senso che l'antenna non gli ha fatto niente per come l'aveva impostata lui, hai capito Gianni cosa intendeva lui? E vabbè, comunque qua si se faceva sentire, fischiava, sentiva ma proprio forte, il fischio forte. E poi veniva volante, se si senti proprio con la sua potenza proprio. 100 km orari era, non era da bufura. C'era, perché c'era. Certo, 40 lì, a quanto dice del regista, 160 km orari di vento. Lo so, è colorata per quelli, perlomeno loro la vendono per essere colorata a 160 km orari. Ripeto, ma secondo me è anche un vantaggio il fatto che oscilla. Se oscilla bene non si rompe, se oscilla male secondo me si può rompere, si può spezzare. Io vento ce n'era, altro che se ce n'era. Tu pensa che io ho tutti i dieci a casa, le finestre qui sono praticamente sigillate, dentro casa, eppure quel vento si sentiva la notte, è forte anche, molto forte, si sentiva soffiare, nonostante con i vetri e vetrocamera che ho in tutte le finestre, per cui finestre più le persiane chiuse con le palette movibili che io chiudo tutto, è una doppia schermatura, nonostante tutto il rumore del vento si sentiva ugualmente, non eccessivamente, però si sentiva, ecco com'è. Altro che se c'era, ma lui intendeva che come la fa, la riporta bene e il vento non ne subisce più di tanto, capito? O meglio, subisce il vento ma non le fa niente. Luca, sei rientrato? Sì, sono salito un attimo su alla tromba dell'ascensore perché c'è umidità nel... di nuovo piovendo. Umidità, sono sento sul motore a controllare se fa forza, che le gasi popolari vanno in entrare agli uribini, che hanno messo un impermeabilizzante su dove c'è il motore, però adesso sta di nuovo perdendo, adesso sono salito a controllare se stava controllando sul motore, se no bisogna fare come l'anno scorso, una copertura, chiamare la rete popolare, eccetera, eccetera. A te, una mazzinata, Dani. Io che non piglio a lavare l'ascensore perché se c'è umidità non so chi piglia la cosa anche io. No, per quello no, però è pericoloso, se cucciola sui relè sono aperto su, capito? Non c'è uno sportello dove ci sono i relè, sono quei relè meccanici, poi dico pensavo di piatto di 40 anni fa, l'ascensore è così, è originale, non hanno mai cambiato niente. Non è credibile. C'è stato quando l'anno scorso, 2 anni fa, che purtroppo la guaina con gli anni poi, allora abbiamo messo una copertura in cerofa perché lo sappiamo che la rete popolare prima che venga fatti i lavori non potevamo non usare l'ascensore, ci sono disabili nel palazzo, così che, capito? E poi sono venuti hanno dato l'impermeabilizzante a pinzello, eccetera, eccetera, però va, secondo come piove, proprio lì nell'angolo dove ci sono i relè, si sta di nuovo inumidendo. Vieni subito, dai, 2 minuti. Perché cazzo io mi ricordo a casa di mamma avevano fatto lui, praticamente delle rete popolare. Avevano fatto i plafoni in paglia pressata, e quando salivi sul tetto c'era la bottola, no, c'era una asse per camminare sulla bottola, questo qui che ha sbagliato, ha messo il piede e così ci è sceso nella camera da letto nostra, è rimasto gullacchi bisurori e mia madre gli ha messo sotto la scala per farlo scendere per non ammazzarsi lui, poi l'ha voluto chiamare per popolare, allora l'hanno fatto bene, l'hanno rifatto tutto quanto il solaio, però intanto per un periodo siamo dovuti stare con tutto il plafone bucato, poi un casino. Facevano le cose un po' così in paglia, non so se tu li hai mai visti in paglia pressata. No, io li ho conosciuti con le canne di Sassa del Greco, zona Duomo, con le canne legate una con l'altra a fil di ferro e poi mettevano la retina sotto e intanaccavano, capito? Con la, proprio non canna di bambù, canna normale. Ma te immagini? Ma quelle del Duomo lì, dalle parti dove c'è la Piazza Santa Caterina, quella zona lì, le facevano così chissà quanti anni hanno quelle case. Beh, quella di mamma c'ha un bel anni. Tu pensa che ancora quando ci abitavo io aveva già 50 anni quella casa. Però erano molto solide esternamente, c'erano i muri intrattite. Il problema era che quando d'estate scaldava un bel, di inverno c'era freddo. Eravamo a stufa a legna e quella riscaldava bene, ma eravamo sotto il tetto, quindi immaginati tu d'estate con i muri intrattiti e quando abbiamo dovuto fare il buco per mettere all'interno della casa, mettere il contattore, abbiamo dovuto creare lo scalpellino perché era tutto intrattito e non riuscivano a fare il buco. Lo scalpello quando dava i colpi si faceva, la parte della punta si faceva come quella dove battivi, figurati tu. Ti puoi immaginare. Ma anche nelle migliori case oggi, fatte normalissime però con cappotto, tutto chissà che voi, l'estate il caldo lo soffri lo stesso, a meno che non ti intieni rinchiuso con gli infissi con doppio vetro, ma devi stare chiuso dentro casa. Se tu apri una finestra d'estate o d'inverno, la casa si scalda o si raffredda. Ah, giornali tu di buoni cappotto, doppi vetri, isolamento, non vedrai nulla. Tu se apri come tutte le case, la mattina devi aprire per areggiare e lì poi entra il caldo e tu soffri il caldo tutto il giorno. Infatti anche nelle migliori case hanno sempre il condizionatore, perché il caldo entra, il caldo e il freddo entra, anche tutti vanno in stufa, e come mai? Tutti hanno il riscaldamento, e come mai? È inutile, dunque, buone, spendo un sacco di soldi per appunto isolare la casa, e da voi cappotto, gasbetto, mica gasbetto, e da voi bagosa, e intanto la stufa alle pelle ti direi bigliata, sul condizionatore che è bigliato, cosa è risolta alla fine? Niente, che risparmi qualcosina, ma tanto non è bene di isolamento. Intanto ci sono, c'è il condizionatore che riscalda meglio, quindi fanno, non c'è bisogno di farlo l'isolamento. Diciamo che adesso le case non prendono più umidità come una volta, prima si vedeva umido da tutte le parti delle case, adesso è difficile che si veda roba di umido, perché perlomeno a casa mia è tutto asciutto bene, a parte il fatto di quello di su che mi si è allagata la casa, che mi si sta scrostando tutta la pittura e praticamente glielo ho detto, ancora non è sceso a vederlo, però in questi casi qua sono umidità ballato. Ma è così, purtroppo, vabbè, adesso devi aspettare che esca il sale, hai capito, tutta la perfetta che fa, e poi dice, me ne sto scendendo a fuori, si sta staccando la pittura e mi sta accadendo la terra. Sì, è normale, però già, quello è normale, adesso il periodo primavera, lo devi soccare, perché se c'è molta pittura, Aspetta, è arrivato un messaggio. Giulio, rientrato. Non lo so, Giulio. No, non è rientrato. Io adesso sto uscendo con 3 watt, Luca. Come sta andando di segnale? Questo è 3 watt adesso. Vabbè, questo apparato 940, sì, qua. K. Cosa stai usando? Un K? No, è 706. È strano però come si sente questo microfono. Non sembra nemmeno, mi sembrava più una static dalla timbrica. Magari è la timbrica del tipo di radio. Aspetta un attimino, provo in diretta a regolarti il mic gain. Allora, vedi un po', adesso lo metto a 1. Vedi un po' se ha cambiato, o a parte che si abbassa la modulazione, però si è cambiato di timbrica. Sì, adesso va molto meglio, ci sono più medio alti, però si è abbassata come hai detto tu la modulazione. Atlantico non sarà necessario quello lì. Se c'è inserito il processore, ok. Luca, hai toccato qualcosa, sei fuori, non sei più sul canale. Aspetta un attimo, metto il blocco. Chiamare devono disbloccare i telecomandi, il coso di questi preventivi. Ritorniamo al menu. Vedi un po', lascia tre battute in modo che e adesso può andare bene, sì, bene, sì, adesso va meglio. Quanto stavo dicendo, io li odio questi col menu, perché basta che tu sfiori qualcosa, come l'apparato che c'è in macchina, se ne va da una frequenza all'altra, basta che tu che appena appena non li puoi usare, almeno guarda, ci fosse un blocco per non toccarli, sarebbe. Io ho in macchina usando un apparato che forse è il miglior portatile che esista sulla terra, perché c'ha tutto, c'ha le base, c'ha FM, c'ha M, c'è tutto quanto, e si sposta, appunto, si sposta secondo come lo tocchi, si sposta, e ogni volta esce fuori frequenza, allora stiamo diventando scemo, con la scuola non lo conoscevo. Noi diciamo, ti esce fuori frequenza, se fuori frequenza, brutta, ma invece si era spostato col tasto. Ma da pulire lock, quindi come faccio io? Io l'ho regolato, ho messo il lock e non entro più da nessuna parte. Ciao Lu. No, ma ti spiego già, questo c'ha il VFO, no, però entrando nel menu c'è il pulsantino, sicché non me ne sono accorto. Quando sono entrato nel menu ti fa vedere le voci del menu, però avevo col dito spostato appunto di frequenza. Ecco perché adesso ho messo il blocco, sicché anche se io sto girando in questo momento il VFO, non succede niente, perché c'è il blocco, capito? Già, quando fai queste operazioni nel menu, perché il tasto è talmente vicino che capita involontariamente che ti sposti, capito? Sì che è clap, allora va bene, lascio così il macchigli anche per te. Sei ben tornato, Sì, sì, per me lo potevi lasciare anche come era prima, ma così già va bene, non c'è problema. Avanti Giulio. Ok, sono ritornato. Sì, beh certo, no, stavo assicurando lo stendino che c'è fuori, che ieri l'ho trovato stato per terra, oggi ci sono anche panni, uno, se tu vai all'altro stesi, ho dovuto legare come si deve, così anche il vento sono un po' più via, non si sa mai, se cade in cabina sopra qualche macchina, se mi tocca pagare anche la macchina, allora ho fatto quel lavoro lì, adesso che ancora si vede discretamente fuori. Sì, no, già va bene la radio, va benissimo, non c'è problema. Non c'è problema. C'è un sacco di attività. Anche che modulare il locco o queste. Si blocca, infatti me ne sono a foto. Quando lo tocchi quel tasto, anche se tocchi altri tasti non si sposta, il canale rimane sempre fisso. Non c'è problema, è una comodità quel tasto lì. Avanti Gianni. E allora io lo devo mettere perché con l'apparecchio lì ce l'ho da poco e non è che lo conosco bene, però è molto completo come portatile, c'ha tutto, c'ha le bande, c'ha FM, c'ha M, è un portatile completo. C'è uno dei migliori che ho visto, perché della Midland ci sono bellini, però tutte queste cose non ce le hanno, invece questo della Intex è un bel portatile. Qualche rama. Quello che ti ho detto già Franco, sì, lo conosco, l'ho visto, va bene, è un bel portatilino, ottimo. Sì, oh Giulio, metti dove c'è scritto F-Lock, ti blocca tutto, nessuna funzione attiva su 440. Ma anche se questo sto usando io, sono 50, c'è il lock, lo metti. In digitale, che magari va bene così, anche se questa è tutta a tasti, bisogna stare attenti. No, è un casino, ti ricordi che c'è quel coso che ti blocca praticamente la modulazione, dopo se fai passaggi lunghi te la blocca. E me l'ha disinserito Gianfranco perché io non metto le voci piedi. Avanti Luca, riprendi. Era solo quando va a fare le operazioni del menu, come stavo facendo prima, e sbadatamente ho girato, capito? Se no non succede niente. Vabbè, mi lascia di nuovo smesso, poi riprende a piovere, ui ui. Poi già ho una Game Master, a chi interessa, nuova, mai usata. Originale o fatta? Originale con un tanto di adesivo Game Master, 100 euro chi la vuole, aiuto. Ci sta, un video dimostrativo, metto una delle mie in diretta e poi la Game Master la piazzo un attimino e faccio un video dimostrativo della differenza, così poi chi la vuole, ripeto, il prezzo è quello, meno no, se no vanno a comprarsi la nuova che a quel prezzo forse trovano la mezz'onda della Game Master. Quindi è baracchino, se no ti taglio il cavo e non se ne parla più. Occhio, c'ho le forbici wireless, sta attento tu. Pronto, mi abbassa da vera, buonasera. Prova, vabbè Franco forse ce l'ha costruita o lui, non lo so, vabbè, no, a me no, perché io ho paura che si spezzi, non lo so, vabbè, comunque. Non voglio rischiare, è troppo alto qua, no? Troppo vento, miglia, troppo alta, fa stata un po' più bassa, ma è troppo grande con l'antenna. Vai Giulio, riprendi. Ok, ciao Tino, ben arrivato sul canale numero 23, ovvero pure la stazione di Punti, la cupolice è quella della Tenoce, poi quella del Monte Rosa non basso e poi quella di Carbonazzi, perciò scegli tu e vai perché vuoi. E quella cosa bambina non esiste. Vabbè, ci sei tu, no, va bene lo stesso. Allora mi scelgo un canale anche io, così almeno mi faccio il mio canale. Ma che so, ti do un po' fille. Ciao, chi è? Buonasera, spero che mi abbia riconosciuto. Ciao Gianni, sì dai, non ho fatto ascolto, sono entrato così perché ho sentito a Luca veloce parlando dell'antenna, quindi dovevo tagliare il cavo. Kappa, no, già, stavo dicendo, sì, ma con Luca è un prezzo abbastanza onesto, perché costa 170 euro, io l'ho pagata così perlomeno, praticamente ho preso quello che la dava di meno, perché non ce ne sono altri, ho controllato tutti, 170 euro con le spese di spedizione. Ma stanno abbassando, ho visto lì già, sono già 140, una cosa del genere. Così ho visto, perché poi magari hanno fatto la mezz'onda, 120 ho visto la mezz'onda, ti puoi immaginare. No, la mia è 580. La mezz'onda costa 120, e l'altra 140, 150, sì, in base al negozio comunque arriva anche a 170, però ormai a 170 sono pochi negozi, perché anche quella sta calando. Per tornare, sì, no, non è che ho paura che la spezza, capito, da te la spezza, perché tutti la mettono più bassa possibile sul tetto quella, perché la tronca. Io l'avevo riparato quella di Sandro Tigre, quella che aveva lui a Porto Torres, e l'ho riparata io perché il vento gli ha troncata come un fruscello, ma non solo a lui, ma anche a Sassari, se tu piazzi la Game Master con 5 metri di palo fuori dal tetto, poi mi torni una risposta, qualsiasi casa sia, capito? Dopo il quinto piano, per dire, facciamo una scommessa che l'antenna, quella lì dura poco o meno. Dopo la ringhiera, Ma mi sono toccato la spalla. Già, perché tu l'hai messa a 1,50 m? Scusa. Giulio, perché ce l'ha bassa? Perché non la mettete alta? E poi aspettiamo quando c'è il vento, che dico io. Allora sì, capito? La tronca non c'è niente da fare, la struttura, l'ingresso di uno stilo con l'altro, capito? L'ho venuta di qua, non è per pindacciare, cioè guardatevi il video della mia su Facebook e da poi mi torni la repubblica. Io se vuoi metto con la Game Master, ok, quella che ho, se vuoi la piazzo sul tetto, ok, vediamo quanto dura rispetto a quella che c'è già. Ascolta, però a quanto si dice anche è statisticamente approvato da prove fatte, che non si mettono i tiranti. A Sandro gli si è spezzata perché lui ha messo l'anello gravattato e gli ha messo le lenze, capito? Le lenze, oddio, nylon era, non era lenza, e l'ha spezzata perché lì faceva forza al vento, a quanto so io. È chiaro che io posso avere lo stesso problema, perché potrei anche prenderla, per dire, no, una Game Master e montarla, ma io sono a 50 metri d'altezza, cioè la 510 flette a 45 gradi, ma non si spezza perché è corta, gli elementi sono pochi, quella lì è un bel lunga, capito? È un bel lunga, e la paura mia è che si spezzi, come dici tu, perché fino a quando la metti bassa tiene il vento e va bene. Quella di Sandro era bassa, ma tieni conto dov'era, è come che fosse a 50 metri d'altezza, capito? Però non ne sono sicuro che si spezzi senza tiranti, non ne sono sicuro, perché ho visto dei video che veramente fletteva tantissimo e non spezzava, non so. Giulio, tu ne hai visto prove fatte? Sì, io ho seguito molto al computer, ho visto tante video, però bisogna vedere anche l'intensità del vento di tutti i filmati che ho visto io, com'era. Si piegava, certo che si piegava, però ne ho visto anche qualcuna che la stava riparando perché gli si era rotta, gli si era spezzata, certo. Io ripeto, questa non lo so, perché questa ce l'ho sia non un paio di mesi, io, questa originale, però io avevo quella canna da pesca che era proprio da 4 soldi, ma veramente da 4 soldi, quella della Decathlon, eppure l'ho tenuta 2 anni e mezzo piazzata qua. Non era molto alta, d'accordo, questo sì, lo so benissimo, però io qui da sopra il tetto vedo il mare, per cui non ci sono ostacoli, perché le case che ci sono qui intorno a me hanno né più né meno la stessa altezza della mia casa, per cui non c'è un ostacolo, il vento passa sempre da qualsiasi parte, eppure nonostante tutto io l'avevo rinforzato in quel modo. 30-40 cm di tubo elettrici nei vari collegamenti degli elementi e ho visto che reggeva tranquillamente. Ma sono arrivato, ho visto il mattino Napoli che bombardena tutto a bombardare. Capito qua? Per cui non so cosa dire, poi è chiaro, si può anche rompere, certo che si può rompere. Sarebbe bene riportare come sta facendo, come fa quella Luca, che poi la vulcanizza tutta lunga per tutti i 7 metri e dunque la rinforza sicuramente va molto ma molto meglio come resistenza. Va bene, vai Ottino. Io rimango del parere che la massa va più robusta, poi sono scelte, ma io ho visto anche dei video di quella di Luca che ho postato tempo fa, non so quanto, magari stava tirando il vento, però era in forza e la vedevo piegata notevolmente. Poi il paragone che voglia fare Luca con l'originale, quello da provare entrambe con le stesse altezze e verificare. Ma infatti io quello sto dicendo, cioè io ho l'altezza per poter fare una cosa del genere. E la mia paura è quella lì, perché la 510, che è 2 metri più corta, cazzo, è una cosa allucinante. Soprattutto ieri che eravamo a 75-80 km all'ora di maestrale, piega tantissimo, ma non è la prima volta, c'è stato maestrale anche più forte. Piega moltissimo ma non spezza, ma perché sicuramente è più corta. Capito? Sicuramente è più corta. se fosse più lunga sono sicuro che l'aspetterebbe, non lo so, vabbè. Non lo so, è una prova che si potrebbe fare, ma io non me la sento di buttare via i soldi. Avanti Gianni. Io nel frattempo ho cambiato radio, dai. Sì, diciamo che però le cose se non si provano non si può sapere come vanno, quindi noi ci siamo fossilizzati a usare certi tipi di antenna e niente, abbiamo visto che funzionava bene, da lì non ci siamo musi, però è bello anche sperimentare, vedere anche altri tipi di antenne, dai, e come possono andare. Per il momento a me mi sta soddisfando, il vento ne ha fatto, l'antenna è sempre attaccata. Oh Gianni, via. Ah, sollevala quell'antenna, sollevala, non lasciarla a 1,50 m, sollevala a 5 metri e poi vediamo se prende lo stesso vento di quanto è adesso e quanto dura. Certo, facciamo, io metto la Game Master, questa che ho io qua che sto vendendo, la metto qua a casa, alla stessa identica altezza dell'altra e vediamo quanto dura, capito? E così è l'innesti e tutte le cose, le modifiche, eccetera, eccetera. Purtroppo la tronca, no, non c'è Cristo. Il vento, appunto, come stava dicendo Claudio, a chi gli su, come ti ho detto io prima, perché quello vento era. Il vento, che dico io, è quello quando i radioamatori abbassano le antenne, qua, io parlo qua di Sassari, abbassano le antenne, quello è vento da temere, non questo, questo era una passeggiata, infatti la mia rideva quando soffiava questo vento ieri, e io sono alto me. Eppure c'è Gianfranco che abita lì nella zona di Monteoro e mi sembra che Monteoro sia abbastanza in alto, eppure c'era anni anche lui che è stato alla Game Master e non ho mai saputo che gli si sia troncata, io Luca, non lo so, comunque è possibilissimo, poi chiaramente bisogna avere anche un po' di fortuna dello si tronchi, perché se non bisogna spendere altri soldi per comprarla. Tutto lì, vai qua. No, Gianfranco non abita a Monteoro, ehi, me ne frego 50 metri. Gianfranco abita sotto, è a Caniga. La strada che va praticamente a... la strada vecchia che va a Uri, diciamo, abita lì lui, è molto più basso. Ehi, è molto più basso e molto più riparato. Monteoro è Monteoro. Monteoro Balcone, dove c'è la campagna della figlia, lì si vede Sassari sotto. Lì è alto, perché c'è 50 metri, c'è il ripetitore della RAI, quindi è altissimo lì, è molto alto, capito? Allora, tu immaginati che io ho montato, quando si è rotta la 510, che infatti poi l'ho rimessa quella lì, perché gli ho fatto l'innesto, l'ultimo pezzo l'ho rifatto, grazie a Dio, è 10 anni così, sempre con lo stesso tubo, lo stesso diametro bianco, eccetera, si vede solo il doppio innesto e basta. Io avevo messo la 7000, la 7000 è alta 7 metri, ok, me l'ha spezzata di netto, un maestrale forte che c'è stato, che aveva fatto un casino a Sassari, me l'ha spezzata di netto e non era tirantata, come fletteva, si è spezzata da sotto dove c'è il primo giunto praticamente, capito? Perché è più lunga, però è più fine, perché c'è anche 1200, è più fine, quindi non ne aggiungo molto più, non ne ho messo più, ho rimesso la 510, che è più grossa e più corta di 1,5 m, 1,70 m, capito? Quindi il discorso può essere quello, però ripeto, giustamente come dice Gianni, se non sperimenti, se non provi, io non mi muovo da questo tipo di antenne, come odio le antenne verticali multibanda, le antenne verticali multibanda si spezzano, si fasciano, se non le metti tiranti si sfasciano. Vai Dino. Sì, a me mi si è troncata dalla parte vetrovisione dopo 30 anni e l'avanto, ma quella perché la vetrovisione era ormai stanca di rimanere in piedi, l'ho cambiata e adesso spero di durare 30 anni. Vai Luca, vai. Ma infatti a Mantova, io come dico sempre, è una signora antenna. La Game Master è un'antenna che non ha conicità, tra l'altro, oltre agli altri, capito? Non ha conicità, ecco. così che io non le ho fatte le prove le ho fatte lì con la semplice canna da pesca e tutto quanto, la troncava come un fruscello, sto dicendo, la troncava, sicché da lì dovevo lavorarci ancora, dalla base a tutto quanto, fino a che non ho trovato la soluzione, che dopo anni che è ancora sul tetto, c'è quella dittore, eccetera, eccetera, finché non ho trovato quella soluzione lì, che fino ad ora va bene. Giustamente bisogna fare sempre un po' di manutenzione, ma non è che devi cambiare di sopra la gabbicchiudia. Io manutenzione l'ho fatta una volta, capito? Guardata, vedete il nastro si è tutto a posto, stazionare sempre 1.0, 1.02 così, e a me non mi ha mai creato problemi, le mie, io parlo delle mie. Ma le tue sono fatte con materiale diverso, queste qui sono state progettate da un ingegnere, non sono fatte da così artigianalmente, o Luca, scusami ma te lo devo dire, queste antenne qua sono state progettate da un ingegnere.